Buonasera a tutti, ecco, buonasera. Buonasera ad Anna Maria. Allora, aspetta che ti rimetto il microfono, eh. Puoi Ma ridirlo? insomma, non mi vuoi sentire stasera? No, non ti voglio sentire, l'hai Buonasera a capito? tutti. Buonasera. Allora, prima di presentare le nostre ospiti, io volevo salutare i radioascoltatori, ricordare che state ascoltando Radio Alma 101.9, mentre sono le 21 e sta per cominciare la trasmissione I colori Scusate, i dell'anima. colori Eri dell'anima, distratta, Anna Maria, come diciamolo. sempre. Va bene. è lunedì, perdonatemi. Va bene. Allora, prima di presentare però la trasmissione, quindi l'argomento di cui parleremo questa sera, io propongo di cominciare con un brano musicale, quindi ci ritroviamo fra pochissimi minuti. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con Anna Maria e Rosanna e a fra poco. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed ecco anche il nostro stacchetto, la nostra sigla che è interpretata da Carla e invece la musica è di Angelo e Angelo e Carla sono due tra gli animatori di questa trasmissione dei colori dell'anima. Allora, Anna Maria, torniamo a te. Eccoci qua. Stasera abbiamo intanto un ospite che ormai è molto conosciuta ai colori dell'anima, Fiorella, buonasera. Ciao, grazie a tutti di avermi chiamato. Molto piacere di essere un'altra volta con voi. Grazie a te di essere venuta. E abbiamo Benedict, buonasera. Buonasera. Allora, Benedict parla un po' italiano, però parlerà anche francese in questa trasmissione. E Sì. quindi con Anna Maria, anche con Fiorella, magari Saremo l'aiuteremo, un po' faremo un tutti e po' due. di traduzione. Allora, Anna Maria, vuoi introdurre tu l'argomento di questa sera dei colori dell'anima? Sì, allora, intanto vi dico che io ho conosciuto questa ragazza, questa Benedict che ho di fronte a me, in tutt'altra circostanza, ci siamo conosciute, poi chiacchierando, che cosa fai nella vita? E lei mi dice, io mi occupo di ipoterapia. Ho detto, wow, ipoterapia, che non c'ha niente a che vedere con gli ippopotami, eh? Infatti. Specifichiamo. E allora mi ha incuriosito. E gli ho chiesto se poteva venire qui da noi a raccontarci qualcosa di questa attività di cui noi non sappiamo assolutamente niente, nel senso che sì, ne abbiamo sentito parlare, ma non sappiamo esattamente di che si tratta. E magari Benedict ci racconta qualcosa di questa sua passione, perché io credo che per lei sia più una passione che un mestiere, correggimi se No, è sbaglio. vero, è vero. Allora, siccome forse l'argomento è più semplice da esporre in francese, on peut switcher directement en français, si Ok. sta, est plus simple. Et voilà, raconte-nous de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? Ben, l'hypothérapie, ben, on retrouve le mot hippo, qui n'est pas pour l'hippopotame, comme tu nous l'as dit, mais pour le cheval, effectivement. Et thérapie, bon, là, je pense que tout le monde voit en tout cas un petit peu ce que c'est. Et donc, il s'agit d'une discipline. Qui permet d'effectuer de la thérapie auprès de personnes handicapées en utilisant le cheval comme partenaire thérapeutique. Ce qui est magnifique. Tout à fait, tout à fait. Et c'est effectivement au travers de la relation qui va se nouer avec l'animal qu'on va apporter bien-être d'un changement positif dans la vie des personnes qui viennent pratiquer, qui viennent chez nous. Et tu fais ça depuis longtemps? Je fais ça depuis 6 ans maintenant. Donc tu es vraiment experte, hein? C'est vraiment. Ça commence, on va dire. On continue à en prendre tous les jours, mais oui, c'est sûr. J'ai fait une formation de 2 ans avant de pratiquer. Donc voilà. Ah, donc tu as suivi une formation exprès pour Tout à fait. pouvoir faire de l'ipothérapie. Tout. Rosanna, credi che ci sia bisogno che traduco? No, non penso Ma a questo evento. diciamo. Ora parliamo di una terapia, insomma ci diceva appunto Benedict che si tratta di una terapia che serve per migliorare la situazione di persone che hanno degli handicap che possono essere fisici o psicologici, Sì, giusto? appunto, sì. Esatto. E le ho appunto chiesto da quanto tempo la praticava, mi ha spiegato che da 6 anni e ha seguito una formazione per diventare ipoterapeuta. Sono stata brava? Ottimo. Bravissima. Comunque, confermo la stessa cosa che ha detto. Le domande, Benedict, te le possiamo fare anche in italiano? Sì, certo, certo. Ecco, posso provare di rispondere in italiano, ma forse sarà un po' più complicato per me. Ma tu quindi da 6 anni che fai questo lavoro e prima facevi tutt'altro o comunque ti ha sempre interessato, diciamo, l'aspetto, la terapia, magari la facevi in un altro modo? Allora, la storia è che quando ero piccola j'ai monté à cheval per... Cavalcato. Sì, ho cavalcato per 10-11 anni e il cavallo era veramente un animale, era il mio miglior amico e quindi tutto il tempo che potevo passare vicino ai cavalli lo facevo. Poi quando ho avuto 18 anni ho dovuto scegliere un mestiere, j'hésitais. Ero indecisa? Sì, tra un mestiere collegato al cavallo o fare qualcosa più nel domaine psicosociale. Nel campo psicosociale. Sì. E quindi ho scelto di diventare assistente sociale. E poi, più o meno 12 anni dopo, ho scoperto questa forma di terapia, mi sono detto... C'est pour moi. parce que ça me permet vraiment de concilier les deux. Voilà, lier la passion du cheval avec l'intérêt pour le travail psychosocial. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, raconte-nous un peu, et où est-ce que, dans quel endroit tu le fais? Alors, je travaille moi à Tervuren, donc un peu en dehors de Bruxelles, dans une toute petite écurie qui est tenue par une psychologue qui pratique elle-même l'hypothérapie et qui a 11 chevaux et poneys, et où on a envie, elle avait vraiment envie d'instaurer une ambiance très familiale, et aussi avec des cours d'équitation classiques, quelques-uns, pour un peu mêler les deux activités et qu'il y ait des échanges entre des personnes tout à fait valides et les personnes porteuses d'un handicap. Et, voilà. Et faut-il donc des chevaux spéciaux pour ce type de thérapie? Alors, oui et non. Non, en ce sens qu'il n'y a pas besoin d'avoir des chevaux d'une race particulière, des chevaux d'un âge, d'une taille particulière. Ça peut se pratiquer avec tout cheval. La condition est quand même, pour des raisons notamment de sécurité, que les chevaux soient bien équilibrés, bien socialisés, soient sociables, aient l'envie d'aller vers les gens au départ. Donc ils n'ont jamais eu de traumatisme, dans ce sens. Oui, non, oui. Parce qu'on a aussi récupéré des chevaux qui avaient été maltraités et qui maintenant sont des super partenaires. Ils sont vraiment d'excellents thérapeutes, on va dire. mais oui, il faut en tout cas qu'ils aient ce caractère sociable et qu'ils puissent supporter quelque part des comportements qu'au départ ils pourraient naturellement, ils auraient tendance à fuir. Donc, des personnes qui vont crier, des personnes qui vont frapper dans les mains. Expliquons un peu ce type de thérapie, à qui elle convient et quelle est l'approche, enfin. Mm-hmm. Elle peut convenir pour moi à toute personne, quel que soit l'âge. Ma plus jeune patiente a 1 an et quelques mois et le plus âgé a 60 d'années. Mm-hmm. Quel que soit le type de handicap ou le type de souffrance psychologique que les personnes dont les personnes souffrent, parce qu'on peut travailler autant sur la mobilité des personnes, sur le fait qu'elles puissent récupérer une meilleure mobilité, s'assouplir si c'est nécessaire, se remuscler, qu'aussi travailler sur ce qui est plus sensoriel et relationnel, améliorer la communication avec les autres au travers de la relation avec le cheval. Il y a vraiment un spectre très très large de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut imaginer est faisable quelque part avec le cheval. Avec la relation avec l'animal. Ouais, perché gli animali sono estremamente sensibili, non lo dimentichiamo. Cioè, noi gli esseri umani sono abituati a parlare, sono abituati a esprimere, soprattutto con la parola. Gli animali che non parlano sono abituati ad osservare. E quindi loro osservano l'essere umano e capiscono lo stato d'animo e la situazione che si presenta in quel momento. Quindi questo non ce lo dimentichiamo, chi c'ha cani, gatti, qualsiasi tipo di animale in casa, io sono un amante degli animali, devo dire. E quindi i pazienti, come diceva Benedict, vanno da un anno e mezzo a 60 anni, sì, va bene, quindi più. Come dicevi tu, questo tipo di terapia va bene per tutte le persone, sì. Secondo te non ci sono, diciamo, limiti, e appunto lo dimostra il fatto che l'età è così varia, e anche, come dicevi prima, i cavalli, non è che c'è un tipo particolare di cavalli. No. Scusa, una domanda stupida, ma i cavalli hanno tutti un colore particolare o sono, possono essere di qualsiasi colore? No, ci sono cavalli di non tutti i colori, ma diversi colori. E vediamo, ci sono anche dei simboli associati. Associati ai colori. Sì. Ah, sì. Cinque, quindi ci sono i cavalli bianchi, neri, maroni. E il colore del cavallo influisce sulla terapia? Pensi? Non veramente, ma ci possiamo chiedere perché questa persona ha scelto questo cavallo, certo, piuttosto che un altro. Può essere per il colore e per qualcos'altro. Qu'est-ce que cette couleur a évoqué envers le patient? Scusa, posso, tu dici che il paziente sceglie il cavallo, ma il cavallo può scegliere il paziente? Perché sì. Visto se gli animali sono, partiamo da una base, gli animali sono sensibili, ci può essere anche a volte un rifiuto da parte dell'animale verso un paziente e viceversa. Dunque, sì. Ci sono stati casi in cui il cavallo ha scelto di accettare o meno il paziente? Sì, e quello che è interessante nella relazione è di vedere che quello che capita tra la persona e il cavallo, e quando lavoriamo con cavalli in libertà, le reazioni dei cavalli possono essere veramente diverse, possono justement se rapprocher, être attirés, ou au contraire fuir, rejeter. E c'est ça que le thérapeute va quelque part analyser dans les échanges pour renvoyer à la personne une réponse par rapport à son attitude. Dire par exemple, tiens, tu avais envie de l'approcher, ce cheval, il n'y a pas été sensible, il a fui, pourquoi? À ton avis, qu'est-ce que tu peux changer dans ta façon de faire pour arriver à créer la relation avec le cheval? Et voilà, tout ça va aider la personne à finalement prendre du recul, s'auto-analyser aussi et changer son comportement. Donc, le changement du comportement n'est pas... il est naturel, c'est-à-dire on n'oblige pas la personne à changer, c'est parce qu'elle le veut. Voilà, tout à fait. Donc, c'est dans ça que... Enfin, je suppose, je ne suis pas thérapeute, mais... tout à fait. Et le but, c'est que ce soit la personne elle-même qui se mette en recherche, quelque part, de la solution pour atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé avec l'animal. C'est incroyable. Je trouve que c'est magnifique. È un mondo veramente interessante. Allora, io propongo di fare una piccola pausa musicale, ci ritroviamo naturalmente fra pochi minuti, mi raccomando rimanete con i colori dell'anima, mentre stiamo parlando di ippoterapia, e ci risentiamo dopo, sempre su Radio Alma 101.9. Allora, questo era... come l'avrete riconosciuto, Riccardo Cocciante. Questo lo so anch'io. Questa era una delle mie canzoni preferite quando ero giovane. Vabbè, mi piace ancora, però insomma. Vabbè, questo è un grande classico della musica italiana. Mettevo tutti in croce i miei all'università quando organizzavamo le feste, perché tutti quelli che suonavano la chitarra gli chiedevo di cantarmi Margherita, a tutti i musicisti, e di dedicarmela. Allora, siamo ai colori dell'anima, sono le 21:23 e stiamo parlando di ippoterapia con un ospite in studio che è Benedict, e che appunto lavora in questo ambito, perché tu, Benedict, lavori, non lo fai come benevolà. No, assolutamente. È un tuo lavoro proprio a tempo pieno. Ta journée, ça, c'est comment? Qu'est-ce que tu fais? Du moment que tu arrives dans ton lieu de travail. Alors, la journée commence généralement par quelques soins aux chevaux quand même, aller les chercher en prairie par exemple, les nourrir, voir si tout va bien, s'ils vont bien, de quelle humeur ils sont, parce que eux aussi ont leurs humeurs. Et donc, partant de là, décider un peu avec quels chevaux je vais travailler. Alors, je travaille aussi bien avec des groupes de personnes. Je prends 6 personnes maximum à la fois, ou bien en individuel. Et donc, je fais des séances selon l'âge et les capacités des personnes qui vont de une demi-heure à une heure pour les individuels et en général des séances d'une heure et demie lorsque c'est avec des groupes. Et donc voilà, là ensuite c'est l'accueil des personnes. Il y a souvent, ce sont des personnes, je travaille énormément, ça j'ai pas précisé, avec des personnes autistes, des personnes trisomiques pour ma part. Ça n'a pas été spécialement un choix, mais voilà, ça s'est fait un peu sur le tas et finalement, d'année en année, je me suis spécialisée par rapport à ce public-là. Et donc, c'est un public qui a notamment besoin de rituels. Donc, toutes les séances sont très ritualisées et vraiment découpées en plusieurs moments, suites de petits moments qui s'enchaînent et qui restent identiques, plus ou moins. Pour les rassurer, ceci voilà, pour les rassurer. Tout à fait. D'accord. Parce qu'ils ont besoin de repères. Pour sinon effectivement ce sont des personnes les autistes qui ont des troubles sensoriels et que quand quelque chose change dans leur environnement par rapport à leurs habitudes c'est ça exactement ce angoisser. N'est pas choquant la première fois qu'ils viennent en thérapie, ce n'est pas traumatisant pour eux. Non, c'est très. Ce qu'il y a, c'est que je fonctionne vraiment en fonction des désirs que j'observe chez les personnes. Donc, quand ils viennent au manège pour une séance, il n'y a pas de fin en soi. Par exemple, le fait de monter sur le cheval n'est pas du tout une fin en soi. Parfois, les parents attendent ça, les éducateurs attendent ça, et là, je leur explique tout de suite. Non, si ça se trouve, il peut-être, ne va pas monter. Oui. S'il a peur, s'il n'a pas envie, je vais vraiment suivre ce que lui me dicte au travers de son comportement. Et donc, partant de là, effectivement, la mise en confiance est très importante, mais partant de là, comme je suis leur désir et je vais là où ils vont, parce qu'ils sont assez libres dans les écuries, oui. C'est assez sécurisé, donc ils peuvent déambuler à leur guise. En général, ça se passe bien parce qu'ils sont quand même curieux. C'est un animal qui attire énormément les gens, qui d'un côté fait peur, mais d'un autre côté... Parce qu'il est grand. Mais qui en même temps suscite beaucoup de désir. On a envie de l'approcher, on a envie de le caresser, de monter dessus, de s'appuyer dessus. Il peut nous porter, nous bercer. Donc ça suscite beaucoup d'émotions diverses. Et c'est justement ça que je vais exploiter au travers des séances. Donc voilà, d'une part, c'est assez ritualisé, mais en laissant vraiment une grande marge de liberté aux personnes qui, bien souvent, quand elles sont en institution, parce que la plupart d'entre elles sont dans des centres pour personnes handicapées, sont dans un cadre qui est beaucoup plus rigide. Oui, j'imagine. Donc, voilà, je me perds un petit peu par non, rapport non, à la question perds de... Pas. Je ne te perds pas, c'est exactement ce qu'on voulait entendre. Sì, quindi la mia domanda appunto era come si svolge la tua giornata tipo e tu hai detto che intanto quando arrivi controlli lo stato d'animo degli animali, dei cavalli, perché prima ancora di farli venire in contatto con gli esseri umani bisogna vedere loro come stanno, quindi ti occupi di loro e poi invece per quanto riguarda le persone che vengono da te tu ti sei ritrovata ad occuparti di persone che hanno delle patologie specifiche, nel tuo caso appunto le persone con problemi autistici e per i quali cerchi quindi ogni volta di ricreare lo stesso ambiente, di fare in modo tale che loro ritrovino, abbiano dei punti di riferimento in modo tale che questo gli dia sicurezza perché appunto come dicevi le persone che hanno questo tipo di problema si perdono e invece hanno bisogno di avere delle certezze. E appunto Anna Maria ti ha chiesto se per queste persone è difficile, invece tu hai risposto che non è così difficile, anche quando arrivano la prima volta già si sentono diciamo a loro agio. Sì, tout à fait. Allora io volevo chiedere invece a Fiorella, che abbiamo sentito poco questa sera. Diamole il là. No. Allora, questo argomento, l'ipoterapia, cosa ti ha fatto pensare? Che così ricordi ti ha evocato? Allora, Prima cosa, volevo solamente fare una piccola aggiunta a quello che sta dicendo per quanto riguarda il toccare l'animale, no? È molto importante soprattutto per gli autistici, e per, come dire, rivalutare un animale che forse noi non rivalutiamo molto, c'è anche la terapia fatta attraverso l'asino, non solamente con il cavallo. E l'asino è anche perché è molto tranquillo e soprattutto perché l'accarezzare il suo mantello dà tranquillità, perché è molto morbido, dunque un pochettino rivalutiamo. Io non l'ho mai accarezzato un asino, questa è la prima cosa che faccio. Guarda, siccome già alcune volte abbiamo parlato le nostre origini abruzzesi, io mi ricordo che in Abruzzo, almeno quando arrivo al paese, c'erano pochissimi cavalli, ma c'erano molti asini per lavorare, e sì, la sera si portavano ad abbeverare. Dunque, quando andavo in vacanza dai nonni, ci si aspettava sempre alla fonte l'asino di turno, dunque gli ultimi 100 metri si facevano con l'asino, se aveva e voglia di andare avanti, più delle volte che tu lo tirai. Però c'è sempre avuto, come dire, questa visione dell'asino testardo e tutto quanto. Invece un asino molto paziente è quello che lavora duramente, e tra l'altro è molto di aiuto per la, come dire, come questa terapia per i bambini e per le persone. Dunque, tu mi dicevi cos'è che mi ha fatto ricordare tanti anni fa di un libro che mi hanno regalato, L'uomo che sussurrava i cavalli. La maggior parte delle persone hanno visto il film con Robert Redford, no, giusto? Esatto, ecco, il belloccio. Il belloccio, che la sera già un pochettino un po' sfatto comunque. Dunque, era del 95, il libro, scritto da Nicholas Evans. E io ho visto sia il film che ho letto il libro. Devo dire che il libro, parlando anche con Benedict prima, ci è piaciuto moltissimo, perché viene messo veramente in evidenza, a parte che il libro è più intimo, sì, è più intimo da una parte, ma spazza di più, perché è tutto ambientato nel montano, tutte queste bellissime montagne, no? Si attraversano. E poi la relazione fra uomo e cavallo è molto più stretta. La trama è una ragazza che ha avuto un bruttissimo incidente, per cui sia lei che il cavallo rimangono seriamente feriti, sono sul punto di morire, tanto che la sua amica muore con lo stesso cavallo. Dunque il suo cavallo diventa talmente, come dire, subisce talmente delle trasformazioni dal corpo, tanto da poter essere quasi abbattuto. Quando lo vedono per la prima volta, dice, vedono il cavallo con gli occhi di fuori, come si dice, il volto tutto quanto sfregiato e con queste zampe larghe. Mi ricordo che nel libro viene detto, hanno in questa maniera, vedendo questo cavallo, capiscono che cosa può essere vedere il demonio, che tanto fa paura. Addirittura. Sì, e la bambina pure è molto malata. Dunque si cerca con la mamma, capisce che può aiutare la ragazza, la figlia, solamente aiutando il cavallo, perché il cavallo dovrebbe essere abbattuto. Però la ragazza era talmente legata al suo animale, che c'era questa simbiosi, e lei dice, la mia figlia non riuscirà mai a superare, andare avanti, se anche il cavallo non supera lo stesso shock, perché lo shock che hanno vissuto insieme, hanno visto le stesse cose e sono ridotti nella stessa maniera. Dunque, ma come un pochettino il film, si manda a questa persona, a quest'uomo che è nel Montana, tipo macho, così viene sempre, diciamo che ci sta pure il Rob Redford, dunque, e ci vuole, dai. Io avrei scelto qualcun altro, dunque, perché nel libro è più, come dire, più intimo, è più duro, giusto, è più propenso verso l'animale che verso le persone, ecco. Dunque c'è proprio tutto questo, e anche il libro porta proprio a piano piano, mentre tu arrivi in questo ranch del Montana, tu ti metti in questa atmosfera dove non c'è internet, viene dal mondo di Boston, tutto quanto efficientissimo. Dunque capisci anche quanto possa essere diverso il legame fra l'animale e l'uomo. Cioè, è un mondo talmente a sé stante che solamente forse in questo ambiente può vivere. Cioè, l'uomo, certo, la ragazza e il cavallo. E lì forse nel libro si vede molto di più questo legame. Dunque vanno di pari passo per salvarsi, capite? Per quello anche la domanda che avevo fatto prima a Benedict, quando si fa la terapia, la pet therapy, se anche il cavallo è, come dire, è un attore, cioè sceglie il suo, fra virgolette, il suo malato, comunque, perché in quella maniera, sai, è un po' come il malato, il dottore che sceglie anche il suo paziente, no? Perché non si possono. La cosa bella è che il cavallo non è cosciente di essere il suo dottore. No, tu pensi di no? Io penso. No. Non lo so. No, il ressent les choses, les émotions, ils perçoivent dans le langage corporel des choses que nous, on ne perçoit même pas. Et ils adoptent un comportement particulier. Donc moi, j'ai déjà souvent observé que, je vais prendre un exemple concret. J'ai une dame qui vient, qui elle a la sclérose en plaques, donc qui souffre physiquement énormément. Elle monte un grand cheval blanc et brun, qui est super confortable. C'est un gros nounours, il est très très très confortable, mais comme il est très grand, elle a du mal à monter dessus. Et donc, ça prend du temps de la mettre à cheval. Et quand je la mets à cheval, elle se met dans des positions sur le dos du cheval qui sont inconfortables pour lui. Et pourtant, il ne bouge pas. Il attend patiemment qu'elle soit bien installée pour ensuite démarrer. Si moi, je devais mettre autant de temps pour monter sur lui et m'installer sur des parties de son dos qui sont inconfortables pour lui, il me laisserait pas faire. Il bougerait, il me dirait, toi, tu sais bouger, dépêche-toi. Exactement. Tandis qu'avec elle, il a une patience vraiment illimitée. Maintenant, c'est pas pour ça, il faut pas non plus rentrer dans l'anthropomorphisme finalement et prêter au cheval des sentiments qui sont humains. Donc, voilà. Allora, dunque la domanda, si partiva dal discorso che appunto il cavallo diventa un pochino lui il dottore, e in realtà dicevamo con Benedict che non si può identificare, cioè non si può trasporre tutto ciò che è umano su un animale, cioè gli animali hanno una sensibilità diversa, e lei ci raccontava appunto di un cavallo che lei utilizza per fare la terapia ad una signora che ha una malattia che le causa gravi dolori, quindi ha difficoltà a muoversi, e ci mettono moltissimo prima di farla salire al cavallo. E questo cavallo, nonostante tutte le difficoltà di questa signora per salire, quindi che si mette in posizioni che non sono le classiche, il cavallo non si muove. Quindi il cavallo si rende conto che non si deve muovere, ma non per questo sa di essere un dottore, sa di essere la terapia della signora. Insomma, non so se ho fatto bene la traduzione, insomma, forse il succo della questione era un pochino più profondo, però. No, ma l'hai fatta bene, è molto interessante, e appunto probabilmente questo dà un senso dell'ipoterapia, cioè cosa significa, che non è solo stare con i cavalli, ma stare con i cavalli che hanno un comportamento diverso, e che quindi fanno la differenza tra le persone che hanno dei problemi di salute e le persone sane, quale appunto sei tu, che invece ti piace andare a cavallo da quando avevi 10-11 anni e quindi sei esperta, diciamo. Quindi, allora, in questo posto, in questo maneggio, avete 11 cavalli, hai detto. Sì. E quante persone lavorate? Siamo tre ipoterapeuti e ci sono due altre donne che danno corsi di equitazione normale, sì. Quindi ecco, sì. Questo avevi anche detto all'inizio, quindi non è solo ipoterapia, ma è anche una, diciamo. Beh, diciamolo magari il nome di questo. Sì, sì, si chiama Hippo Ranch. Hippo Ranch, sì, e il sito web anche? Sì, c'è un blog, quindi è www.hipporanch.be. E il poranch è scritto H-I, sì, o H-Y? No, H-I, 2-P-O, R-A-N-C-H. Punto B-E. Sei bravissima. Brava, infatti. Veramente bravissima. E siete anche su Facebook o no? No. Oh, c'è qualcuno che non è su Facebook, che non è su Facebook come me. Ma sai, Rosanna, in due, allora. Ah, che siamo io due, e Fiorella siamo diventate amiche anche su Facebook. Da ieri. Vabbè, ma se due persone sono amiche e poi lo diventano anche su Facebook, lo posso accettare, ma quelli che diventano amici su Facebook e non si conoscono e forse non si conosceranno mai, ma che razza di amicizia è? E non si accetta quel tipo di amicizia. Ma non si accetta. Non ci si concede così. Vabbè, d'accordo. Ma è come quando tu vai a fare un viaggio, incontri qualcuno e diventi amico. Stessa cosa, sì. Va bene. Sei un po' restia? Sì, ancora. Allora, io propongo ancora un brano musicale e poi continueremo quindi a parlare di ipoterapia. Intanto invito Benedict a pensare al colore, perché insomma, come penso Anna Maria già ti ha detto, ad ogni argomento associamo un colore e quindi poi ci dirai tu qual è il colore che secondo te si associa alla ipoterapia. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Eccoci di nuovo qua. Allora, abbiamo parlato di ipoterapia, abbiamo parlato... Non abbiamo parlato molto, Fiorella, con te stasera. Come mai? Ma se vuoi io la faccio. Abbiamo ancora un quarto d'ora circa. No, abbiamo meno, perché dobbiamo terminare qualche minuto prima. Posso fare una domanda? Il colore? Sì, no. Sì, dimmi. No, chiedi. No, volevo sapere se... Dunque, c'è questa ipoterapia, dunque una terapia che inizia e poi finisce, no? Dunque, volevo sapere... Questa è una domanda molto romantica. Il cavallo, poi quando il paziente va via, voi avete visto se per esempio il cavallo aveva nostalgia o dopo tanto, cioè, perché effettivamente non è una cavalcata e vai, no? Ma c'è effettivamente una simbiosi, come dicevi prima tu, c'è questo cavallo che sta fermo per permettere a questa persona di accomodarsi bene, dunque c'è una partecipazione. Sì. Dunque, e mai, non so se avete notato, una volta che la persona finisce la sua terapia, cioè non è che il cavallo viene da voi e dice boh, lo sta, gli do un colpo di telefono, ma se c'è un qualche cosa lo cerca, non lo so. Alors, je vais malheureusement casser un mythe et un rêve. Non chiama il cavallo. C'est que il n'éprouve pas ce genre de sentiment là, il est extrêmement sociable, donc il va chercher le contact et je vois des chevaux qui ont une attitude, je parlais tout à l'heure de cette dame à la sclérose en plaques, la relation qu'elle a avec ce cheval, parfois j'ai envie de lui dire que ce cheval est quasi amoureux d'elle, parce que quand elle arrive, il l'appelle, il la reconnaît, et tout de suite il se relaxe, il est apaisé, détendu, et il s'endort quasiment, enfin tous les deux se détendent, il y a vraiment une... On dit en français l'isopraxie, mais où ils s'emmènent dans non, le la même... Non, la traduire, cette parole. Ils s'emmènent dans le même tonus. Maintenant, il sait que quand la séance se termine, il va avoir une carotte, donc il est content aussi. Ah, mais ça, c'est beaucoup moins romantique. Une fois qu'elle s'en va, mercenario proprio. il ne verse pas de petites larmes parce que c'est fini. Bon, lui, c'est son travail, finalement. C'est... Donc, ensuite, il est tout aussi content. C'est une récompense aussi quand ça s'arrête, parce que... Là, j'arrête de rigoler maintenant, mais ça leur demande quand même beaucoup d'efforts aussi aux chevaux, de patience, de travail, même si c'est pas un effort physique comme peuvent le faire les chevaux de course, les chevaux de jumping, mais par contre c'est un effort au niveau de ce qu'ils peuvent accepter de l'autre. Et donc je pense aussi que quand une séance s'arrête, ça peut aussi être pour eux un moment... un moment, une pause, comme nous dans notre travail finalement on en a besoin, et donc voilà, nous on veille particulièrement aussi à offrir aux chevaux des moments où ils sont entre eux en prairie, en liberté, parce que justement on leur demande beaucoup, on leur demande d'être très généreux et très patients, et donc on estime qu'il faut pouvoir leur rendre l'appareil quelque part, et donc les moments dont ils vont, je pense, se réjouir, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là, ils n'ont pas ces émotions-là, mais ça va être plutôt quand ils se retrouvent entre eux à brouter de l'herbe, oui, en voilà, prairie. Libre en prairie. Tout à fait. Sì, allora, ci domandavamo in effetti se una volta che la terapia è finita con un paziente, se il cavallo, un po' come il cane, sente la mancanza del paziente che è stato con lui per un lungo periodo. E Benedict appunto ci spiegava, correggimi se sbaglio, ci spiegava che non vanno così in là nel sentimento, l'animale si dedica moltissimo a quel momento che ha con il paziente, ma una volta che ha finito, siccome gli richiede moltissimo sforzo, sono anche talvolta forse movimenti o comunque degli atteggiamenti innaturali per l'animale, per cui una volta che è finita l'ora di terapia, il momento di terapia, il cavallo ha bisogno di essere prima di tutto ricompensato e poi sa che una volta che è finita andrà a brucare l'erba con i suoi amici nel prato e avrà la sua ricompensa anche lui, quindi in un certo senso il sentimento come lo vediamo noi non lo possiamo, neanche in questo caso lo possiamo trasporre all'animale, perché loro hanno un altro tipo di feeling, un altro tipo di sentimenti, che se chiamati così, insomma. Allora, Bénédicte, la couleur. Dis-nous. La couleur, eh bien, j'aurais choisi, j'ai un peu pensé, spontanément, ce qui m'est venu, j'aurais bien dit l'arc-en-ciel. Parce que je pense que le cheval amène un spectre, il amène tellement de choses qu'on pourrait se dire que c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et un arc-en-ciel, c'est un pont quelque part. Et je trouve que le cheval, dans la thérapie, ben, il a un pont entre la personne et moi en tant que thérapeute, un pont entre la personne avec elle-même. Enfin bref, c'est une relation, un trio qui est très intéressant. Mais puisque je dois choisir une couleur, je vais choisir le jaune-orangé. Mm-hmm. Le jaune orangé, on n'avait encore jamais eu une nuance pareille. Hein? Come lo chiamiamo? Giallo indigo. Questo è peggio del tuo indico. Giallo arancio, come lo chiamiamo? Giallo arancione? Mm. Può essere un giallo ocra, perché? Allora. Un poco no? Allora, perché, spiegacelo, Benedict. Perché è un colore caldo, mm-hmm. Anche di stagione, ma è un colore caldo. Il cavallo è quello che mi... C'est ce qu'il m'amène quand je pense quelque mm-hmm. part au cheval et aussi au plaisir qu'il me donne moi dans le métier que je pratique, parce que ce qui mm-hmm. est très gratifiant, c'est qu'on observe tout de suite des résultats positifs et donc on offre quelque part, le cheval et moi, un peu de bien-être et de bonheur immédiat. Mm-hmm. Et donc voilà, le jaune orangé, ça me fait penser oui, à la chaleur, au fait de se lever dans des... Dans quelque chose de chaud, des couvertures douillettes. Voilà. voilà. È quello, no, il colore. È questo qui. Benedicta. Sì, direi. Volevo chiederti, ma nel maneggio siete tutte donne o siete donne e uomini? Le persone che lavorate? Tutte donne. Ah. Non so, perché te l'ho chiesto perché ho pensato che forse lo eravate, ma te lo spieghi tu come mai che siete tutte donne? Cioè... Penso che già nei tutti i mestieri psicosociali ci sono più donne che uomini. Sì. Forse perché siamo più maternote. Mm-hmm. Forse. Cioè abbiamo forse una sensibilità diversa. E sì, questo istinto materno che ci porta un pochino a proteggere le persone. Gli esseri che sono un pochino più, riteniamo, tra virgolette, riteniamo più deboli di noi. Sì, forse, questo non ne sono uh-huh. sicura, ma uh-huh. forse potrebbe essere una spiegazione. Sì, ma ci sono, conosco altri posti dove ci sono anche uomini che lavorano, uh-huh. non è riservato alle femmine. Sì, sì, no, va bene. E se qualcuno volesse prendere più informazioni uh-huh. e saperne di più, magari hanno bisogno di una terapia? Come vi trovano? Allora, se vanno sul blog del Hippo Ranch troveranno sì. numeri di telefoni e qualche tutti i contatti. Sì, sì, sì, sì. Ma posso anche lasciarvi il mio numero di telefono. E se qualcuno... Prego, dillo, sì. Non lo dico sulla... Non la radio, perché è il suo numero personale. Ah, d'accordo. Ce lo lascerà bene. A noi, ah, così se abbiamo noi. Qualcuno che ci scrive o ci telefona, ci Benissimo. Chiama per avere informazioni, noi glielo diamo. Voilà. Allora, ci potete scrivere, come sapete, a icoloridellanima@radioalma.eu. icoloridellanima@radioalma.eu. E ci potete telefonare, adesso siamo in fine trasmissione, comunque ricordiamo anche il nostro telefono. Ok, allo 02-345-2656. Benissimo. Allora, Fiorella, tu volevi anche ricordare la data di ieri, perché oggi siamo al 10 novembre e ieri... Sì, erano i 25 anni della caduta del muro di Berlino. ed è stata una bellissima cerimonia. Io sono un pochettino meno giovane, si dice così, ecco, di voi, e ricordo molto bene quei 25 anni, perché ero davanti alla televisione. Dunque, quello che vorrei solamente dire è, se un attimino, se qualcuno ci ascolta, ma tutti noi non facciamo un attimo un passo indietro a quel 9 novembre di 25 anni fa, e riuscire a captare quali fossero state le nostre sensazioni nel vedere il muro di Berlino. Io quando ero piccola l'ho vissuto molto, vedevo la televisione, e ancora ricordo, ogni tanto si parlava di queste persone che cercavano di scavalcare il muro. E dunque alcune ce la facevano, ma più parte no. Io ero una ragazza, ero giovane, e rimanevo molto impressionata da questa voglia, perché tu sai, ti vedi un muro, io dico, ma come, uno deve scavalcare il muro, questa voglia di sorpassare quel muro, di sorvolare quel muro, anche se le condizioni erano molto difficili. Dunque la maggior parte, forse uno su dieci riusciva, ma io mi ricordo anche molte persone che venivano uccise o venivano fatte prigioniere. Però c'era questa continua voglia di andare dall'altra parte. E mi ricordo ancora quando furono la sera del 9 novembre, quando si aprì questa breccia, le persone avevano paura di passare, no? Dunque nessuno voleva fare il primo passo. Poi invece la commozione, e devo dire che ieri ho rivisto le immagini, mi sono ricommosso anch'io, perché era è un'emozione molto forte. Dunque, e questo mi ha fatto anche pensare un'altra cosa, che io di questa generazione, perché ormai non ho più 20 anni, però abbiamo visto veramente il mondo cambiare, no? Dall'ammaraggio sulla luna, l'uomo sulla luna, anzi no, io ancora prima, io da Laika, dalla cagnolina Laika, io tifavo per lei, sì. Dalla prima donna astronauta russa, vi ricordate, poi Yuri Gagarin, sì. E dunque ne abbiamo visti di questi passi, di questi, non solamente sulla luna, ma questi passi anche nel mondo. Io penso che ogni tanto dovremmo ripensarci. Va bene, senti, grazie anche di questo così riferimento che ci riporta appunto un po' in questo periodo storico importante. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, quindi io comincerei con ringraziare Benedetta. Ah, un piacere. E ricordare quindi il sito web www.hipporanch.be. Sì. Per avere informazioni quindi sull'ipoterapia e sul posto dove tu lavori a Terburen. Sì. Grazie Benedetta di essere venuta. Grazie a Fiorella. Grazie a voi. E come al solito ti rinnoviamo l'invito a tornare, perché sai che ci fa piacere averti. Io rinnovo la mia disponibilità. Grazie ad Anna Maria. Grazie a voi. Grazie a te, grazie alle nostre ospiti, grazie ai nostri ascoltatori. E buonasera a tutti i radioascoltatori. Naturalmente rimanete sintonizzati con Radio Alma, e come sempre ogni lunedì ritroverete I colori dell'anima dalle 21 alle 22. Buonasera a tutti.